Buona giornata. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. È molto molto molto aperta, molto di più che la Champions, poi è un po' più complicato vincerla perché è più grande, ma questa è la bella, bellissima Coppa, mi piace molto questa Coppa. La Coppa è fatta per tutte e uno vincerà. Ecco, chi vincerà la Europa League nel 2015 potrebbe partecipare? Parteciperà, sì sì. Parteciperà quindi nei gironi sì. Eliminatori? Sì, farà parte della Champions, sì, è un premio per chi vince questa Coppa, sì. Serpentina straordinaria. Era importante vincere e anche più importante farlo giocando bene e dopo subire un gol e vedere la reazione della squadra. Sicuro che questo ti carica per la prossima partita. Guarin verso Icardi, Fedeschi. È finita l'azione, prova ancora e ce la fa questa volta a mettere il pallone in rete D'Ambrosio. L'Inter passa in vantaggio al minuto 26 del secondo tempo. L'anno scorso D'Ambrosio l'abbiamo preso perché doveva migliorare in certe cose, come vedete, ma spesso il gol fa tante cose in più di quelle che sapeva fare prima. Si devono sentire tutti i titolari perché dovrò ruotare molto, perché le partite speriamo siano tante, perché vorrà dire che saremo arrivati molto in avanti sia in Europa League, il campionato è chiaro, e anche poi quando inizierà la Coppa Italia cerchiamo di fare il possibile per arrivare più avanti. Lascia passare. E allora anche Federico Bernardeschi partecipa alla festa della Fiorentina. Una partita, così come domenica scorsa siamo stati di più risolutivi, insomma credo che la squadra abbia dimostrato una buona partita, l'abbia interpretata bene, condotta benissimo e siamo contenti di questo inizio. Il pubblico ci è sempre stato vicino anche domenica scorsa, anche nelle sconfitte dell'anno scorso, il pubblico lo sento veramente molto vicino alla squadra e di questo ringrazio tutti i tifosi. Il mio era un messaggio, chi voleva capire capisce, sicuramente non la squadra non si monta la testa perché è fatta di calciatori sani e intelligenti. Monta per la squadra, per me è un gioco, sembra abbastanza bene perché credo ci sia stata una buona interpretazione. Abbiamo concesso due colpi di testa in 90 minuti e abbiamo buttato via meno 20 cross del 2 contro 2 in mezz'area di rigore, ma al di là di questo è una partita completamente diversa rispetto a quella di domenica scorsa. C'era molta attenzione, molta determinazione nel fare le cose. Allora, 6 partite, 5 vittorie, 1 pareggio, 14 gol fatti, 2 subiti, entrambi ininfluenti. Se volete continuiamo a piangerci addosso sulle miserie del nostro calcio, intanto la prima Eurosettimana ha dato questo verdetto e non mi pare malissimo. Tutti convocati. Pubblico scatenato. Pubblico scatenato, anche Giovanni Capuano, l'uomo della domenica. Scatenatissimo, ciao Carlo. Ma poi Ventura è andato via, dopo aver raccontato che avevano fatto 20 cross. A un certo punto si è alzato e ha detto: dove? Dalla conferenza stampa. Ha detto: quindi, vabbè, il giorno che faremo un tiro in porta, convocherò una conferenza. Mi sembra veramente il paese dei mai contenti. Non siamo dei fenomeni, non siamo diventati dei fenomeni dopo questa settimana di coppe, non lo saremo nemmeno dopo la prossima, ma la depressione a tutti i costi non la condivido. Ieri ne stavo parlando con Pardo, abbiamo avuto delle anche interessanti discussioni con gli ascoltatori. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Dimmi il menù di ieri sera a Pozzuoli. Ieri sera a Pozzuoli sì. Abbiamo mangiato una marea di antipasti a sì. Pioggia, proprio a profusione. Sì, sì. E poi il migliore dei quali? Tuo preferito? Ma sai, ovunque caschi bene, no? Durissimo. C'era una specie di timballino di baccalà e patate di altissimo livello, che io sono un baccalista. Poi c'era un'insalata di polpo di grande professionalità, sì. Poi avevamo delle cozze che comunque non fanno mai male, gratinate. Poi c'erano dei carpacci e insomma non male. Due spaghi ai frutti di mare, poi sì. Poi Bobò ci ha fatto che contro il parere di tutti, che avevamo detto no, il primo no, ha fatto. Ci ha creduto, giustamente. Ha fatto comunque una mezza porzione così di pasta. Porcini e gamberi, pasta fresca, mezza porzione, era proprio una spadellata buttata in mezzo, buttata là, e poi una grigliatina. Ma poi invece dalla pizzeria vicino mi hanno fatto una torta dedicata a me, abbastanza commovente, insomma. Perché? Che hai fatto? Ma no, appunto, così, nulla per meritarmi. L'unica cosa che posso averla fatta è che l'ho mangiata, ecco. Bravo. Te pareva. Mezza porzione anche di Napoli, raccontato prima. Sì. No, ma mezza porzione che può bastare, dai. No, quella l'abbiamo divisa, c'era Sebino Nela, c'era il signor Auriemma, poi chi altro c'era? Poi è arrivato Ugolini, il signor Ugolini di Sky Sport, poi c'era la signorina Titti Improta. E poi basta, direi. Poi c'era il nostro amico Antonello. Il tuo amico Antonello. Mio amico, certo, me l'hai salutato? Te l'ho salutato, ma secondo me ancora non sente Radio 24. È l'ultimo rimasto che non sente Radio 24. Perché... Mo lo chiamo. Adesso lo chiamo. No. Allora, 800 24 00 24, per tutti i depressi del calcio italiano che ancora tutti depressi. Ma pure ieri, no, ragazzi, mamma mia, che schifo, Schifo cosa? Sì, ma dai, abbiamo solo battuto lo Sparta Praga, battuto il Dnipro in Ucraina. Dnipro in Ucraina. Tre schiaffi al King Camp. Un pareggio a Brunch dove Giovanni Capuano prima ricordava, Ventura si è pure arrabbiato che non si è tirato in porta. Ma tra l'altro io ho letto un meraviglioso articolo su un quotidiano sportivo, Pierre, in cui c'è scritto, non cito il quotidiano, diciamo è colorato. La Gazzetta dello Sport, dai. Alla fine c'è questo paragone che dice, il Brunch era vestito di nerazzurro, più che l'Inter però sembra il Lecco, e la sensazione è che il Toro è andato lì come per fare una passeggiata, altrimenti avrebbe vinto. Comunque, poi nell'Euro settimana italiana un gol di Balotelli per la gioia di Capuano, una buona partita di Borini sempre nel Liverpool, il gol di Immobile, il 5-1 di Ancelotti, l'1-1 di Prandelli, l'1-1 del Paris Saint-Germain, che questo vabbè non è un grande risultato, di Sirigu che non ha giocato bene, di Verratti che è stato sostituito, 2-3 per l'Atletico di Cerci, è la quarta volta che le italiane escono tutte quante imbattute al primo turno. Da 9 anni mancava l'emplen di vittoria in Champions, e voi direte vabbè, e continua a mancare. In Champions? No, vabbè, ma solo due, no, cosa dovevano fare? No, ti posso aggiungere una cosa? Solo due, io ho aperto una sfida con il sito dell'UEFA, carissimo Carlo, la perderò, ovviamente, perché quello è il sito ufficiale. A me risulta che abbiamo recuperato il quarto posto nel ranking UEFA, quello che a te non interessa. A me risulta che questa notte abbiamo superato il Portogallo. No, ma visto che ci picchiamo come Tafazzi, quest'anno siamo, fino ad oggi, il ranking di quest'anno siamo al quarto posto assoluto, dietro alla Croazia, alla Spagna, alla Bielorussia, non mi chiedete perché, anzi se volete ve lo spiego, poi siamo a pari mezzo con la Russia, però siamo davanti all'Inghilterra, siamo davanti alla Germania, siamo davanti al Portogallo, la strada è molto lunga. Bene. Ovviamente. Ma non è così lunga, carissimo Pierre. A me il ranking UEFA interessa come regolamento condominiale, né più né meno, è da rispettare, ma mi interessa quanto, mi appassiona quanto il regolamento condominiale, lo so che... Non molti saranno, anzi quasi nessuno sarà d'accordo, ma va bene, 800 24 00 24. Adesso andiamo verso, dopo questa pessima settimana di coppe, andiamo verso Milan-Juventus, che per merito di quei bravi ragazzi di Pippo Inzaghi, che noia, che cosa? Che tanto mia Juventus. Domenica, Milan-Juventus, che noia, domenica ne devi parlare, che noia, a me non stai. Lasciando stare Gagliani che dice il Milan sta tornando, e Berlusconi che dice vinceremo lo scudetto. Marino d'Alessandria, buongiorno, 800 24 00 24, il numero verde. Buongiorno. Non sono d'accordo con quanto espresso precedentemente, sì, una settimana trionfale sotto il punto di vista delle coppe, però il calcio italiano è comunque in uno stato disastroso. Sì, no, trionfale è tanto, positiva è positivo, l'aggettivo giusto. Ok, positivo, ok, d'accordo, condivido in pieno, però c'è altrettanto, è altrettanto vero che comunque andiamo all'estero con squadre tipo Torino con pochi italiani, Inter, di cui io tra l'altro sono tifoso, con italiani pochi, uno che ha fatto gol fortunatamente, e tutti gli altri, cioè noi i nostri settori giovanili sono persi, non lanciamo più i giovani, sì. Tant'è vero che i nostri giovani vanno a giocare al Borussia Dortmund o al Liverpool. Allora, io sono contento, di questo, vadano a giocare al Borussia Dortmund, al Liverpool o al Viktoria Pilsen, basta che giochino. Sì, tra l'altro in questa settimana deprimente per il calcio italiano, ieri ci hanno dato la finale di Champions, oggi ci hanno dato la sede dell'Euro 2020, spezzatino, però anche col quarto di finale a Roma, tre partite più una. Bello, no? Ma a me piace. Bellissimo, no? L'Europeo della grande. Possiamo essere depressi sempre, Pier, però magari questa settimana facciamo finta di no. Poi riprendiamo i processi lunedì. Io non capisco perché dobbiamo fasciarci la testa, anche perché poi diventiamo poco credibili quando invece dobbiamo dire che le cose vanno male. Le cose vanno male da mille punti di vista. Noi dobbiamo sicuramente crescere come fatturati, su questo non c'è discussione, però non cerchiamo dei drammi dove non ci sono, perché veramente, cioè io adesso qua c'ho la formazione del Chelsea che l'altro giorno ha pareggiato con Schalke. Sì. Courtois non è inglese, neanche Cahill e Terry sì, Philippe Luis, Matic, Fabregas, Ramirez, Oscar, William, Remy, Hazard, Drogba, Diego Costa. Che schifo, non è che nessuno dice, ma che schifo. Ma forse a livello nazionale, in realtà l'Inghilterra ha più problemi di noi, anzi senza forse, ma certo. In generale voglio dire, bisogna cercare di essere un po' sereni. È chiaro che siamo di fronte a un primo passo, piccolo passo, però quello che è successo in questi tre giorni qualche speranza la autorizza. A me è piaciuto anche rispetto al passato l'atteggiamento che c'è nei confronti dell'Europa League, perché il Napoli non ha fatto minimamente turnover. Sì, quattro gatti ieri, San Paolo, sì, quattro gatti anche vagamente arrabbiati. A parte il pubblico, dico, Benitez non ha fatto turnover e gli altri comunque hanno fatto un mix che, come direbbe il nostro amico imitatore quando fa Vendola, un mix. E questo secondo me è comunque un segnale rispetto al passato, dopo anni nei quali andavamo in Europa League così. Ma certo che lo è, ma anche perché l'abbiamo detto, fossi in Mazzarri nell'Inter, fossi in Benitez nel Napoli, io questa Europa League la giocherei proprio per provare a vincerla, o comunque provare a vincerla tanto, ma per arrivare più in là possibile. No, aspetta, prima della borsa fammi parlare con Marino d'Alessandria, va. Marino d'Alessandria, quello depresso di prima, Antonio da Bologna, vediamo, sentiamo. Ciao ragazzi, grazie di avermi convocato. Dimmi Antonio. Come va? Bene, io sono napoletano, non so se si sente. No, un pochino, comunque complimenti, guarda, una grande telecronaca, mi piace più di Piccinini. Vabbè, adesso è Antonello, secondo me è Antonello da Napoli. No, Piccinini non mi piace. Comunque volevo un vostro giudizio, diciamo, tecnico sulla difesa del Napoli, perché non è che l'ho vista. Cosa ne pensate? Sulla tifoseria del Napoli? Sulla difesa del Napoli. Non va bene. La difesa male, ma non è una novità di oggi, purtroppo. Perché là un'altra squadra ci faceva più gol, Però c'erano questi, ne hanno fatto uno solo, peraltro su un mezzo rimpallo, un tiro abbastanza fortuito, eccetera. La difesa del Napoli non è una novità, il fatto che sia, diciamo, fase difensiva, come fanno quelli bravi, non è una novità che sia da rivedere. Sì, poi la novità è che ne parliamo da un anno e Benitez ha ricominciato con il 4-2-3-1, con poca protezione della fase difensiva. Dopo la settimana di vacanza a Liverpool. Sì, quando aveva detto che avrebbe anche magari cambiato modulo, già. Poi le scelte sono quelle. Quindi io credo che, carissimo Antonio, tu andrai avanti tutto l'anno così. Fanno così dalla regia, sì, fanno il segno di quelli che... Fermati, borsa, fermati, va bene. Tutti convocati. Quella, tiki-taka, che ti cago, via. Eccoci, tiki taka, chi ti caga? Speciale Milan Juve, ma come sempre, tanti ospiti, sì, tanta caciara, ecco, ma soprattutto un sacco di soldi, un sacco di fregna. Via! Abbiamo anche il collegamento da Genova, il presidente della Samp, Ferrero. Ah, sì. Presidente, come sta? Ubriaco. No, ubriaco. Ubriaco di Samp. Ah, di Samp, eh. Ubriaco. Sì. Di calcio, anche di altro. Ubriaco del mio allenatore, sì. Mihalić, ma soprattutto, sì, la forza Samp, sì. Vedo che in studio ci sono, sì, Bobba. Questo tiki taka, no? Quello vero? Pierluigi. Sì, no, sì, lo sto postando su Facebook. Stai telefonando all'avvocato come al solito. No, le sto, ma no, ma gli autogol sono simpatici, l'ho conosciuto. Sì, gli hai dato un sacco di botte. Ho visto, gli volevi bene. Vanno bene, ubriaco di sangue. Ma mentre c'è un ascoltatore che ti ricorda la festa del baccalà alla vicentina a Sandrigo, provincia di Vicenza. Quando? Abbiamo. Questo weekend. Paese, cerco subito su internet. Questo weekend, Sandrigo, provincia di Vicenza, festa della Bacalà, la Vicentina. Vengo anch'io, però abbiamo anche quello vero, Ferrero. Beh. Ciao Ilaria, un po' che una palamadano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili: cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria, non la faccio più. Ho voluto unire due forze che sono simili, anche nel nome, cinema, calcio, cultura. Questo è il sale della vita. Per quello che mi riguarda ho l'allenatore più bravo d'Europa, ma lo dico non solo da presidente, da, se il termine è giusto, da datore di lavoro, ma lo dico perché lo stimo, perché prima di essere un grande allenatore il signor Sinisa è un grandissimo uomo, essendo nato in un quartiere romano dove è nata la Roma. Quindi Testaccio. Il grande Testaccio, sono nato e cresciuto lì. All'inizio il cuore batteva giallo e rosso, ora sono un po' in difficoltà perché non voglio fare quello che fa la retorica, ok, ma io amo molto la Sampdoria e amo molto i colori. Non me ne vogliono i romanisti, ma sono un presidente tifoso. Ci sono allenatori, giocatori che perdono il sonno per un derby. Secondo lei può capitare anche a lei? Io posso perdere il sonno se ho dormito il pomeriggio. La gente vi segue, avete portato la gente allo stadio pure? Presidente, cioè, mi seguono tutti, per guai se non mi seguono, perché io sto dando la mia vita a questa squadra. Poi mi dite voi qual è quello vero, qual è quello no, qual è il fake, ma... Quindi la notizia è che non potrei mai averlo ospite, che fa la pennica a quest'ora, il signor Ferrero. Ma non essere ottimisti, ma come si fa? Impossibile. A parte che sono tre le cose, calcio, cultura, calcio, cultura e cinema, e quindi non sono due forze. Vabbè, però... Insomma. Pierluigi, calcio, cultura e Sinisa, ubriaco di Sampdoria. Ubriaco di Samp. Come ubriaco di Marassi. Come si fa a non essere ottimista? Ilaria. Tanto fa le pause come Celentano, sì, sì. Corni volare, sì, sì. Ma noi abbiamo anche Andro Mercucci l'altro giorno. Questa è un'altra storia. Mille un Ferrero. E questa stagione è già meravigliosa, anche se Capuano dice che noia, che barba, Milan Juventus di domani sera. Che noia, che noia. Come che noia? Ma come che noia? No, vogliamo fare depressi oggi, no? Siccome è andata male, no, ma in coppa, noi facciamo i depressi. Ci pensano gli ascoltatori a fare i depressi. Però c'è Empoli Cesena, Cesena Empoli alle 18. Tanta, roba. Ho capito che la cosa è serissima, perché c'è la confraternita del baccalà alla vicentina, Sì, Sandrino, tu che partita fai? No, io faccio Udinese-Napoli, tra l'altro voglio ringraziare gli ascoltatori, perché domani sera vado a ritirare il premio Cuffie d'Oro come motivazione speciale, non lo so, gli stavo simpatico e in qualche modo è legato anche a questo programma, quindi grazie mille a tutti quanti e a quelli di Cuffie d'Oro. Vado a Trieste, ci sarà il signor Cruciani, signor Cruciani, credo ci sia anche il signor Barisoni e siamo al top. Quindi domani sera diciamo che sarà bellissimo essere lì a Cuffie d'Oro, anche se farò un po' come Fantozzi, secondo me. Comunque sei in zona, è Sandrigo, provincia di Vicenza. Bellissimo. Sei di strada, diciamo. Andrea Sorrentino, Repubblica. Ciao Andrea, però. Ciao a tutti. Come stai? È tornato, ce l'ha fatta a tornare. Uno dei volti popolari di Tiki Taka, che dobbiamo dire, lui è un uomo fedele, ovviamente straordinario, con una bambina bellissima. Però insomma Sorrentino potrà confermare che da quando è venuto in trasmissione anche al suo livello diciamo di popolarità, no? Anche sì, ho delle guardie del corpo sotto casa, perché sennò fatico a volte a rientrare, a rincasare. Te le presta Galliani, sono le stesse, fanno il doppio turno. Ma sì, tanto io ho bisogno di poco tempo, lui di più, quindi ci organizziamo. Mi avete chiamato per dire questo, immagino, eh? Ma certo, no, senti, raccontami l'Inter e il viaggio a Kiev, che è invece qualcosa che mi interessa. Ho letto tra l'altro il reportage tuo dell'altro giorno, estremamente bello, devo dire, su Repubblica, sulla condizione del calcio ucraino, e qui è roba seria, sulla condizione di quel paese, sul fatto di giocare comunque in territorio di guerra, e l'Inter ci andrà due volte. Questo strano calendario dell'Europa League spedisce l'Inter due volte, una ieri sera e l'altra poi con il Karabakh. Esatto. E com'è andato? Com'è stato questo viaggio? Cosa hai visto? Cosa hai trovato? Dimmi qualcosa di questo. Dunque, essendo andati a Kiev, chiaramente la guerra lì è lontana, se no non si sarebbe giocato a Kiev. Per l'UEFA le uniche due zone sicure a livello internazionale per giocare a calcio in Ucraina sono Kiev e Lvov o Leopoli, quindi perché sono dei centri molto distanti dalla guerra. Il problema è che la guerra si sente, si avverte perché c'è una crisi economica spaventosa in Ucraina, di cui non si parla abbastanza, ma andando lì e parlando con le persone te ne rendi conto. Ci sono enormi problemi a livello di reddito pro capite, di lavoro, ci sono negozi e ristoranti vuoti, non ci sono consumi, ed è in arrivo un inverno terrificante in cui si prevedono problemi enormi anche solo con il riscaldamento nelle case. Già adesso in metà delle case di Kiev non c'è l'acqua calda. È una nazione molto in difficoltà, dove tra l'altro poi è molto difficile capire le ragioni degli uni e degli altri colpevoli, le vittime, i carnefici, perché ci sono delle propagande spaventosamente influenti su un lato e sull'altro. Insomma, è tutto molto difficile. Poi per semplificazione ormai ci viene detto che il cattivo della situazione è Putin. Poi in realtà andando lì e parlando con le persone si rende conto che poi ci sono delle responsabilità del governo ucraino, ci sono delle responsabilità degli stessi Stati Uniti, che ovviamente hanno i loro interessi anche loro in Ucraina, quindi è una situazione molto particolare. In tutto questo ci sono 800.000 profughi già ufficiali fuggiti in Russia, ufficiali, ma si parla di circa 3 milioni di persone che stanno andando via per vari motivi, quindi è una nazione in gravissima emergenza davvero, a parte che il fatto che a Kiev si giochi a calcio ancora. Sì, però ma il calcio è ridotto ad un fantasma ovviamente di quello che era, e poi tra l'altro c'è Poroshenko, leggevo, che è andato negli Stati Uniti e ha chiesto: no, con le coperte non si vincono le guerre, dateci delle armi. Quindi questo per aggiungere qualcosa. Allora abbiamo Andrea Sorrentino, stai lì, abbiamo il traffico. Certo. Cristiano su Twitter da Vicenza scrive a Pardo: se venite a Sandrigo alla festa del baccalà sarete i miei ospiti, tutti baccalati. Potremmo fare una pausa. Va bene, traffico, sentiamo se c'è già traffico dalle parti di Sandrigo. Tutti convocati. Allora, io sono curioso di capire se anche Andrea Sorrentino si iscrive al partito dei depressi che ha un segretario generale, cioè Moggi. Vincono bene? No, perché la Juve ha sofferto prima di vincere. La Roma ha vinto bene, però vedete il problema sono due squadre, il CSK ma ha cambiato e il Malmö che praticamente lasciano il tempo che trovano. In Serie B ce ne sono squadre migliori. Sì, CSK no? Più o meno, non è che abbia fatto una gran figura. Vabbè, questo è la Moggi sul sito di Libero Romagna Verdi. Andrea, anche tu la pensi così? Cioè... Beh, tecnicamente non fa la piega, Juve e Roma hanno affrontato all'inizio della loro avventura in Champions le squadre più deboli dei rispettivi Vabbè, giorni. Ma non sono squadre di Serie B, da Andrea, cioè o di Lega Pro, sono normali squadre. CSK, mezza difesa della nazionale russa, che è un aggravante, visto. Tu devi affrontare, no, io una cosa che mi manda i matti è che se tu devi affrontare il Malmö, sì. Cioè non è che può essere una colpa che devi affrontare il Malmö. Cioè, la Roma che gioca con CSK, che secondo me è una signora squadra, comunque è una discreta squadra, insomma, è stata nei quarti di finale in Champions League 3 anni fa, e vince 5-1. Cioè non è che ti puoi sentire in colpa per il fatto che non avevi davanti il Real Madrid. Cioè, quella era la tua avversaria, l'hai battuta, così come il Napoli ha vinto, l'Inter ha vinto. Poi da qui a non gasarsi in maniera clamorosa, a non pensare che adesso per forza sarà una stagione straordinaria, posso anche essere d'accordo. Sicuro. Se in un calcio italiano come questo, che è in depressione permanente, non troviamo dei motivi per sorridere, allora vuol dire che siamo ormai depressi, siamo disperati cronici, e quindi non so più neanche, forse neanche il baccalà di Vicenza ci potrà salvare, capisci? Però io sono d'accordo, bisogna cercare di essere ottimisti nelle valutazioni calcistiche e anche nella vita in genere, però queste sono tutte ancora impressioni di settembre. Esatto. E io sono anche un po' stanco degli ottimismi a tutti i costi. Cioè qui ogni anno da 10 anni. Non è a tutti i costi. Non è a tutti i costi, no, Andrea, soltanto il tabellino dei risultati. Sì. Cioè, voglio dire. Certo. 3 giorni fa voi eravate sicuri che le italiane avrebbero fatto 5 vittorie e un pareggio? Io no. Io neanche. No, per carità, no, ma infatti salutiamo con favore, con ottimismo e con entusiasmo queste vittorie. Questo è quanto? Di sicuro, esatto, solo questo, ne teniamo conto notarilmente. Poi sappiamo tutti che a metà ottobre, inizio novembre, si comincia a capire un po' meglio che fisionomia avrà la stagione, quando arriveranno le partite più importanti, quando ci si confronterà con avversarie di grande livello, come capiterà Juventus-Roma, e lì si farà la loro nobilitate. E adesso annotiamo che hanno fatto bene il loro dovere, per carità, la Roma addirittura in modo eccezionale. Però aspettiamo, ecco, poi è chiaro che Moggi ha i suoi motivi per dire certe cose, perché sicuro siamo tutti che è un po' fuori dall'ambiente ufficialmente, poi secondo me ci sta ancora dentro, però o forse non ci sta più dentro da poco, magari al limite, però c'è stato dentro fino a poco tempo fa, quindi è logico che lui si senta un po' così escluso e parli in questo modo. Però ha anche ragione il dire. Senti, che ma l'Inter ieri sera? L'Inter sta giocando in pantofole col sigaro tra i denti contro avversari che non le sono superiori, le domina, le ammansisce, le batte, non subisce gol e quindi sta facendo benissimo e per intero il suo dovere. In 5 partite ufficiali nessun gol subito, che è un ottimo punto di partenza per iniziare la stagione. Poi valutiamo anche appunto il lignaggio degli avversari che ha affrontato, sono state 2 volte gli islandesi, 1 volta gli ucraini, 1 volta il Sassuolo, 1 volta il Torino, quindi anche per l'Inter arriveranno banchi di prova diversi, però non subire mai gol, come sappiamo tutti, è sempre una cosa importantissima contro qualsiasi avversario e dà fiducia. Certo, anche per l'Inter e per il calcio italiano arriverà il generale inverno. Sì, anche se mi sembra Andrea che la notizia sia duplice per l'Inter quest'anno. Cioè, la prima mi pare di aver capito che per la prima volta Mazzarri si è lasciato un po' andare dicendo che vuole arrivare fino in fondo, lui che di solito negherebbe anche l'evidenza, lo ha fatto anche a Napoli. E la seconda che mi pare che l'Inter abbia 15-16 giocatori che possono fare titolari, e non è detto che in una stagione come questa non siano pochi, insomma, cioè possono essere il numero giusto per provarci. Sì, Tomma, io anch'io come Mazzarri sto ricevendo così delle sensazioni positive dall'Inter, ma anche a livello di gruppo, di ambiente interno, mi sembra che ci sia una diversa unione, una diversa unità. Sta cambiando qualcosa, Mazzarri se ne accorge, infatti sorride come un gattone sotto i baffi che non ha, gli piace anche a lui questa Inter, ha molte alternative, ha un paio di giocatori molto importanti come Medel e Vidic che costituiranno l'ossatura difensiva di una squadra che non difendeva più bene da anni. Tu devi sapere, Carlo, che Andrea è innamorato di Medel. Di Medel. Ah, sì. Colpo di fulmine. Colpo di fulmine con me. Si è innamorato domenica, lunedì ha fatto tutto il titolone. Tutta Medel. Calcisticamente tutto sia ben chiaro. Signor Medel. Sì. Mi sembra un giocatore diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nel campionato italiano. Ha un'energia diversa, una corsa diversa, tante cose migliori di quelle che vediamo di solito ed è di categoria superiore. Speriamo che il generale inverno non si porti via anche lui. Grazie Andrea. Grazie Andrea Sorrentino. Pardo, dimmi qualcosa su, invece, per chiudere, prima di salutarti e di lasciarti andare nel profondo nord-est a fare le tue cose, compresa Sagre Baccalà. Milan-Juventus. Cuffia d'oro, merito anche della radio. Milan-Juventus. Milan-Juventus, come finisce? Ah. Pareggiano. Anche secondo me. Eccezionale. Quanto? 1-1. 1-1, passi in vantaggio. Prima il Milan e pareggia la Juventus. Dammi anche i marcatori. Marcatori, te li do subito. Allora. Ma Hakim Fiev non è un grande portiere. No, Hakim Fiev non gioca, è un citofono, dai. Il Milan segna. Non dico Menes. Perché sennò saresti banale. Segna Honda. Sei banale uguale. Honda e pareggia Marchisio. Marchisio segna Montari, che tanto con la Juve lui. Montari gliel'annullano. Segna Montari gliel'annullano. Ciao Pier, ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, già che ci siamo, Bad Corner, così. Pensate anche voi cosa giocare. GR, poi torniamo. 800-24-0024. Quote e pronostici. Torna in campo la Serie B per la quarta giornata, che vede due anticipi in campo. Questa sera alle 19 il Carpi attende il Trapani di Boscaglia, che è secondo in classifica. E sono queste le quote sniper. Questo match, l'1, la vittoria del Carpi, quotata a 2,20. L'X è a 3. Il 2 invece è quotato 3,60 alle 21. Ecco invece il derby ligure tra Spezia e Virtus Entella, con la vittoria della squadra padrona di casa quotata 1,95. L'X è a 3,15. Il 2 invece, con la vittoria della matricola Virtus Entella, è quotata da 4,25. Sabato invece torna la Serie A con due anticipi, uno dei quali di extra lusso. Si parte con la gara delle 18 tra Cesena ed Empoli. L'1, la vittoria del Cesena, è quotata 2,65. L'X è a 3,10. Il 2 invece è quotata 2,75. Il piatto forte però è Milan Juventus, luce a San Siro, accese dalle ore 20:45. Gli occhi del mondo sono su questo match. L'1, la vittoria dei rossoneri, è quotata 3,20. L'X è a 3,30. Il 2, con il successo dei bianconeri di Allegri, è quotato 2,25. Questa era l'ultima delle quote di oggi. A risentirci domenica. Tutti convocati. Allora, Zaccheroni nella prima puntata 6 su 10, Viviano 6 su 10, vediamo come se la cava Zeman. Terza giornata di campionato, Cesena-Empoli 1x2. 2. Milan-Juventus 2. Chievo-Parma X. Genova-Lazio X. Roma-Cagliari, devo mettere 2 per professione. Sassuolo-Sampdoria X. Atalanta-Fiorentina 2. Udinese-Napoli 2. Torino-Verona 1. Palermo-Inter X. Ma con 0 vinco pure qualcosa. Questa è Giovanni De Buono, la schedina di Zeman. La schedina di Zeman. Sì. Se avete capito. Comunque ha detto che Milan vince. Parla sottovoce però. Ha detto che Milan vince, vince la Juventus. Vince la Juve. Ma l'ha detto che era Juventino? Juventus 2. Non l'ha detto che era Juventino, torniva con la maglia della Juve. Lo dirà un'altra volta, forse. 800-24-0024 è il numero verde. Io stavo dando un'occhiata, visto che magari tra un po' ne parliamo, così, per curiosità, quanto hanno fatto le inglesi in questa settimana di Coppa. Non mi sembra andate benissimo, eh. Allora, il City ha perso 1-0 sul campo del Bayern Monaco e ci sta, il Liverpool ha battuto nel modo che conosciamo Ludogorets 2-1 senza meritarlo. L'Arsenal ha preso due fischi sul campo del Borussia Dortmund, uno dei quali meraviglioso di Ciro Immobile. In Europa League ne hanno solo due perché una l'hanno persa per strada e il Tottenham ha pareggiato 0-0 a Belgrado con il Partizan, mentre l'Everton ha 4 squilli con il Wolfsburg 4-1. Tommaso da Palermo, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie Lica. Io volevo dare un giudizio a proposito dell'Inter. Io sono interista, sì. E quindi volevo chiedere a lei una cosa di questo tipo. Allora, lo schema che sta utilizzando Mazzarri in questo momento può essere secondo lei ancora attuabile con un Hernanes in queste condizioni? Mi spiego meglio. Hernanes sta deludendo secondo me, almeno dal mio punto di vista, nel ruolo di interno di centrocampo, sì. E giocare con Kovacic ed Hernanes più due punte con un giocatore come Hernanes in queste condizioni, quanto secondo lei può ancora durare? E secondo lei, se Hernanes non convincesse, come sostituirlo e con che modulo? Questa è la domanda che le volevo fare. Grazie e complimenti ancora. Domandone da rischio. Hai 30 secondi per rispondere. Parte il tempo. No, ma insomma, Hernanes sta deludendo, io un po' di tempo glielo darei. Sì, io gli darei un po' di tempo anche perché è l'investimento più importante di Toier, quindi non si può certamente accantonare così. Ho l'impressione che l'Inter che abbiamo visto col Sassuolo e che quella che ha raccontato, insomma, il nostro amico da casa, la vedremo ancora. Ci sono occasioni in cui però vedremo anche un Inter diversa, lo ha dimostrato Mazzarri ieri, dove pronti via, siccome era una trasferta, si è un po' coperto con una punta unica. Io credo che eventualmente possano giocare insieme Medel e Envilà, comunque c'è Kuzmanovic che Guarin si è messo nel suo ruolo, ma secondo me Guarin è destinato a giocare un po' più avanti, non è l'uomo, cioè, se il ragionamento è tattico, cioè la difficoltà di reggere con un certo equilibrio le due punte più Kovacic, non è Guarin l'uomo che può dare quell'equilibrio. Però io ho l'impressione che quest'anno Mazzarri sarà un po' più spregiudicato, tante volte vedremo un Inter abbastanza simile a quella che abbiamo visto domenica scorsa col Sassuolo, e non necessariamente soltanto in partite casalinghe. Sì, comunque un centrocampo, poi se giochi con due punte, avere un centrocampo con Hernanes e con Kovacic diventa non semplicissimo. Sì, ma poi ho l'impressione che l'Inter stia acquisendo delle certezze dietro, dove Vidic sta facendo fare un salto di qualità un po' a tutto il reparto. Per carità, non è Vidic di 5-10 anni fa, però è un giocatore che a livello italiano può essere importante. Assolutamente. E quindi poi magari se tu sei un po' più tranquillo dietro ti viene anche da rischiare di più davanti. Vidic è un eccellente acquisto nel mercato a impatto zero che ha fatto l'Inter, un eccellente acquisto, uno di quelli che ti possono tenere in piedi una difesa come ha fatto Samuel, senza fare un paragone tra Samuel e Vidic, due grandi difensori centrali di quelli che sono in grado di fare reparto da soli, come dicono quelli bravi. C'è Mourinho che ha detto, gli hanno chiesto se è un emittente portoghese, se potesse firmerebbe ancora con il Real Madrid. Risposta scontata, secondo te qual è stata? Secondo me ha risposto di sì. Ma certo, non poteva rispondere altrimenti. Ma quando mai? ma questa è scontatissima, è stata un'esperienza che ripeterei come uomo, come allenatore, senza pensarci due volte. Più interessante invece è quello che ha detto su Cristiano Ronaldo, non esiste un rapporto con lui. Lui gioca al Real Madrid, io al Chelsea, non ci incontriamo spesso, però ci sono ricordi, quelli buoni e quelli meno buoni, gli sono grato per il gol che ha fatto, però con lui non ho nessun tipo di rapporto. Claudio Ferrara, buongiorno. Pronto, buongiorno, saluto tutti voi gli ascoltatori. Io volevo fare il numero verde è? Qual è il numero verde? Lo ricordi lei? Il numero verde è? 800240024. Bravissimo, dica. Io volevo porvi questa riflessione mia, in merito, diciamo, io sono un tifoso milanista e quindi mi riferisco, diciamo, a Pippo Inzaghi in panchina del Milan. Diciamo, i primi risultati sono lusinghieri, diciamo un bel calcio, devo dire la verità, ha portato nuovo entusiasmo, però lo dico adesso appunto in tempi non sospetti, e con questo non vorrei poi anche, diciamo, portare sfortuna al nostro allenatore, ma io non ricordo, diciamo, e spero che appunto Inzaghi sia l'eccezione che conferma la regola, non ricordo in passato dei grandi allenatori, grandi punte, prime punte che poi siano diventati ottimi allenatori. Cioè, faccio un altro esempio. Sì. In pratica i più grandi allenatori che abbiamo attualmente, quelli che ricordo io, sono circa 50 anni, sono ovviamente, che ne so, il Lancelotti oppure grandi centrocampisti. Certo, che centrocampisti che quindi avendo le chiavi del centrocampo e quindi anche le chiavi ovviamente della squadra, sanno in pratica impostare anche più un gioco, anche l'assetto difensivo lo curano meglio rispetto all'attacco. Le faccio un altro esempio, anche a livello amatoriale o dilettantistico, come ho giocato io a calcio, sì, qualora in sede di diciamo di partitella d'allenamento infrasettimanale, a volte gli allenatori propongono la squadra degli attaccanti contro gli difensori. Sì. Nel 90% dei casi vince la squadra dei difensori, perché i difensori comunque la fase difensiva la sanno fare, e d'altra parte qualche volta in porta tirano, cioè la porta la vedono, mentre gli attaccanti fondamentalmente, e io sono di questi, diciamo, nel nostro DNA la difesa, insomma, non siamo molto esperti in fase difensiva. Volevo sapere un vostro questo, parere. Con questo, con questa l'abbiamo gufata di Inzaghi, no? Che è stato un grandissimo attaccante, e quindi stiamo dicendo che, non so, è un fuoco di paglia. No, non si ricorda, in effetti no, ha ragione. A memoria grandi attaccanti che sono diventati grandi allenatori, adesso ci pensiamo, ma... Sì, ma è evidente che stando più dietro per una carriera probabilmente c'è una visione del gioco diversa, e quindi questo aiuta. Klinsmann è stato un buon selezionatore, perché la sua carriera l'ha fatta da selezionatore. È un buon selezionatore. Van Basten non ne ha più voglia. Adesso però ci penso. Maradona lasciamo stare. Adesso però ci penso. Intanto Alessandra Bocci, Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandra. Ciao. No, già ti stavo correggendo su Van Basten. Direi che è meglio lasciarlo tranquillo. Marco, lasciamolo tranquillo. Lasciamolo tranquillo, Marco, esatto. Certamente. Finché capisce cosa vuol fare da grande, che c'ha 50 anni, ma non l'ha ancora capito, ma insomma capita tanti, quindi non è possiamo metterci a cercare. È ancora giovane. Secondo me non ha tutta questa voglia di fare l'allenatore, ma capita, capita. No. Secondo me non ha tutta questa voglia, soprattutto alla Jeff Alkmaar, però vabbè, passiamo a cose che ci interessano più da vicino. No, ma stava il rilievo dell'ascoltatore è comunque interessante. Il milanista però ha subito gufata a Pippo, ha detto non mi ricordo grandi attaccanti che sono diventati anche grandi allenatori, vero? Senti, ma secondo te l'effetto Inzaghi può essere qualcosa, prima parlavo con Giovanni Capuano, può essere qualcosa di lunga durata, di medio raggio oppure qualcosa di diverso? Non credo qualcosa di definitivo a questo punto. Non lo so, è partito bene e comunque insomma gli hanno anche comprato due o tre giocatori che per il momento stanno rendendo bene, insomma poi alla fine... gli allenatori non è vero che incidono poco, secondo me incidono molto quando le squadre non sono fortissime, nel senso che Ancelotti secondo me non ha molto da incidere no, su Madrid, incide deve con gestire. La sua sapienza nel gestire senza rompere eccessivamente le scatole, però quando una squadra non è particolarmente forte, completa e stratosferica come quella, l'allenatore può fare moltissimo. Lui è stato bravo perché ha portato il suo temperamento, che è sempre stato quello di un'assoluta dedizione. Ecco, io faccio sempre il paragone per quanto riguarda l'attenzione al lavoro, certamente non è che Shevchenko fosse peggio di Inzaghi, su questo insomma non ci sono molti dubbi. Sì, però Shevchenko non ha mai saputo quanti gol aveva fatto in vita sua. Non era particolarmente interessato al problema e non si è mai posto neanche la questione adesso sta giocando a golf eccetera eccetera, anche se sta facendo finendo proprio in questi giorni a Kiev il percorso da allenatore. Filippo ha sempre vissuto in maniera molto più partecipata diciamo la sua condizione di attaccante di livello europeo. E questa qui, questa dedizione totale, questo amore sfrenato, insomma, se vogliamo un po' eccessivo, magari per il calcio, eccessivo, non lo so, insomma, diciamo ossessione, una cosa diretta, dai, ossessione. Un'ossessione è quella che si è portata dietro l'allenatore. Ora io paragonarlo, come qualcuno ha fatto, a Conte, insomma, magari bisogna un po' aspettare. Certo. Però effettivamente, se vogliamo dividere gli allenatori in varie categorie, direi che lui è un allenatore ultra, come Conte. Allegri non è certamente un allenatore ultra, ma c'è un motivo: Allegri non è così di temperamento e comunque non è mai stato la bandiera di nessuna ha avuto un percorso diverso dal punto di vista professionale come giocatore, e quindi quello che porta è un'altra cosa, è più distaccato, è un professionista. Quindi ci sono gli allenatori professionali, diciamo, e quelli ultra emozionali. Filippo appartiene a questa seconda categoria e credo che in questo momento, soprattutto dopo tutte le polemiche con il cambio in panchina, sì, e Seedorf, eccetera eccetera, forse c'era bisogno di una figura così. Per quello che dico, insomma, vediamo quanto dura questo effetto emotivo di Inzaghi, anche se ha ragione poi Giovanni Capuano quando dice che è stato bravissimo. È stato bravissimo, lui ha dato un'identità tattica che un mese fa forse Alessandra Bocci, che segue il Milan da vicino, aveva già intuito, però onestamente da qui era difficile vedere una carta d'identità di una squadra che invece aveva evidentemente in testa anche durante la tournée e che poi si è svelata con l'inizio degli impegni ufficiali. Mettiamoci anche il team, per quanto può valere, ma insomma, quando si sono accesi i riflettori. Io non so se avete sentito Allegri, poi magari lo sentiamo, però a proposito della differenza tra i vari mercati che ha avuto Allegri, che ha avuto Inzaghi, oggi con una ha parlato e ha detto: ma la differenza tra il Milan di Seedorf e questa di Inzaghi, beh, comunque a lui hanno comprato dei giocatori che giocano, sono titolari, sono importanti. Io ci ho letto un po' di malizia. Hai fatto bene. No, ma è anche un confronto tra due che non si sono mai amati, quindi è inutile nascondere, sono state fatte delle domande a Inzaghi ed Allegri, poi sentiamo anche le risposte, sono molto edulcorate, però è evidente, sono stati dei forti scazzi tra i due ed è impossibile negarlo. Sono stati anche con Seedorf, ecco, quindi non, diciamo che la vecchia guardia del Milan non ha fatto molti sconti ad Allegri, per cui ovviamente i ricordi off records non possono essere positivi. Poi quando si va alle conferenze stampa, alle interviste, si sa che è tutto plastificato, cioè io un paio di settimane fa ho intervistato Snyder che mi ha detto: ah sì, no, ma Prandelli mi sembra bravo, uno che ama il dialogo, dopodiché dopo una settimana l'ha appiccicato al muro degli spogliatoi, quindi non è, e lo sappiamo come funziona il mondo del calcio. Ma domani si stringono la mano o no? Prima, durante e dopo? No, non credo. No. Non lo so. Secondo me eviteranno di farlo normalmente. Cioè, ci sono molti modi per non farlo. Mourinho quanti modi ha trovato di non farlo? Ma infatti questo è il vero tema del sabato sera. Cioè, se si stringeranno la mano Allegri e Inzaghi. Sì, ma poi posso dirti, anche se se la stringono, le mandano tali e quali. No, è una questione di etichetta. Un po' come quando dicono: ma i giocatori della nazionale cantano l'inno o non lo cantano? Noi abbiamo appeso in redazione la mitologica foto della stretta di mano nella sede dopo che se le erano date di santa ragione al centro Bismara. Oggi lo scrive Crosetti, 20 settembre 2012, Alessandra, credo, ricostruendo la data. Beh, anche quella era una bella stretta di mano, bella finta a favore di fotografo. Sì, quella è stata una stretta di mano, diciamo, per lo stipendio. Certo. Sappiamo che è stata pilotata da Galliani perché bisognava riportare, diciamo, un pochino di ordine. Adesso Allegri non ne ha più bisogno, quindi insomma diciamo che la stretta di mano, se c'ha voglia, la fate, no, nel senso che non essendo più un dipendente del Milan forse non ha bisogno di sottoporsi a questo rito, ecco, questo sì, bella vigilia comunque per il Milan, anche Inzaghi l'ha detto, bella vigilia, finalmente pieno d'ottimismo, c'era tanta gente a San Siro, è tornato a sorridere Galliani, è tornato Berlusconi a dire: vinceremo lo scudetto, è così? Mamma mia, sentire parlare di scudetto mi sembra un po'. No, lui, l'ha detto lui, No, no, ma lo so, ma infatti questa potrebbe essere l'unica vera sciagura per Inzaghi, che comincino, l'hanno cominciato l'anno scorso. E a parlare di obiettivi e di scudetto per una squadra che oggettivamente non vedo come possa. Ma poi, per l'amor del cielo, può succedere tutto. Nel 98-99 probabilmente nessuno immaginava che Zaccheroni avrebbe vinto uno scudetto. In più, rispetto a Zaccheroni, Inzaghi ha il supporto totale di Berlusconi, che per quanto insomma diciamo così sia, possa essere coreografico e basta, però ha la sua importanza, e ha anche appunto qualche giocatore in più. Ma se tutti credono in Inzaghi a supporto di Berlusconi e poi amicissimo di Galliani, vanno tutti d'accordo, mi spieghi perché oggi Galliani ha confermato che la Juventus, che il Milan ha cercato Conte? Io non voglio essere cattivo, però no vabbè, ma lì è chiaro che insomma avevano fatto un tentativo, perché quando tu devi risollevare, onestamente io credo che Inzaghi sia compatibile soltanto con un progetto, veramente progetto, perché se un progetto non è lungo non è un progetto, e mentre invece lì hanno cercato il colpo di teatro. Il più bravo chi è? Quello che spacca lo spogliatoio, che spacca tutti, come una delle accuse che si faceva ad Allegri, che era troppo morbido. Anche lì non ho capito, perché dopo Allegri è andato Seedorf, due persone totalmente diverse, quindi non ho capito bene poi alla fine quale fosse il problema. Sì. E quindi Conte potrà essere, da un certo punto di vista, il grande colpo mediatico. Io ho l'impressione che, fallito quel colpo mediatico, è arrivato allora tutti su Inzaghi, che è un altro tipo di colpo mediatico, perché più che un colpo mediatico è l'investitura che piace a molti tifosi. Sì, è un po' quello che Conte è stato all'inizio, sì, per la Juventus, cioè certo. il senso è quello, cioè un allenatore molto amato dalla piazza, poi molto coinvolto. Molto coinvolto, esattamente. Emozionale, come si diceva prima, e questo è il tipo di scelta che è stata fatta. Però ripeto, secondo me se Inzaghi arriva nelle prime posizioni è bravo. Certo, ma certamente. Guarda, se arriva terzo è un mago, sono d'accordo. Grazie Alessandra, sì. Grazie voi, mille. Grazie. Ciao. Alessandra Bocci. Allora, grandi attaccanti che sono diventati grandi allenatori, diversi suggerimenti, compreso quello di Federico Pastorello, nostro amico che ricorda Cruyff. Io però ricordo la finale che perse con il Barcellona contro il Milan. Sì, però lui è stato sicuramente un grande allenatore. Però secondo me tu stai parlando di numeri 10, di giocatori diversi. Io ho l'impressione che il nostro amico da casa parlasse di numeri 9. Vabbè, grandi non attaccanti. Facciamo. Ma il 10 è un giocatore diverso. Da Mancini è un attaccante, però. Sì, però non è. Non lo so, io credo che la provocazione fosse un'altra. Vabbè. Convocati. Ho deciso, purtroppo ho dovuto fare una scelta dolorosa, ma l'ho dovuta fare. E rimane fuori dalla lista Champions Filippo Inzaghi, non l'ha presa benissimo, era normale, però gli ho anche detto che l'aspettiamo nelle migliori condizioni per poter essere poi di nuovo messo dentro a gennaio. Ho cominciato a giocare, sognavo di vincere la Champions League da giocatore, ci sono riuscito, adesso spero di vincerla da allenatore del Milan. È la prima partita del campionato Lievi, state calmi, capisco che Pippo sia mediatico, ma insomma, voglio dire, è la prima partita da allenatore del campionato nazionale Lievi. Cercherò di crescere partita dopo partita, mese dopo mese, e poi il futuro, chi lo sa, se sarò bravo magari un'opportunità mi verrà data, se no mi divertirò con i giovani, che è veramente una bella esperienza. Per caso ieri o stamattina hai sentito Allegri, magari così per scambiarvi qualche opinione tattica? No, ho sentito Ancelotti. Sì. Riguardo a questi due punti, come hai rischiato di non essere tu l'allenatore del Milan e poi ti senti un po' contiano? Ma no, ma è normale che una città come il Milan possa aver pensato un allenatore come Conte, perché Conte sicuramente è l'allenatore migliore degli ultimi anni, per cui non c'è nessun problema, anzi mi fa piacere che il dottor Galliani possa aver detto queste cose della mia forse somiglianza. Io preferisco far parlare gli altri, io so, conoscendo Antonio, che sicuramente certe cose ci accomunano, come quello dei valori, dei principi, delle regole. Per quanto riguarda poi l'aspetto tecnico dell'allenatore, io ho iniziato molto prima di lui, ha iniziato dalle piccole squadre e attraverso i risultati fortunatamente sono riuscito ad arrivare ad allenare il Milan e la Juventus oltre che i primi due anni di Serie A a Cagliari. E lui ha avuto la fortuna e la responsabilità quest'anno di allenare subito il Milan, che praticamente è casa sua. E quindi niente, gli auguro tutte le fortune del mondo, magari da dopodomani, perché domani ci terrei a vincere io. Dove siamo partiti? Dalla ricostruzione del Dantan, che ha ripescato Franco Piantanita, d'altra parte aveva fatta lui della querela tra Allegri e Inzaghi. Abbiamo finito con dichiarazioni di oggi di conferenza stampa. Sì, l'hai sentito, Allegri che ha detto: ah, come giocatore io non valgo un decimo di Inzaghi, sì. Però come allenatore io mi sono fatto la mia gavetta, sono arrivato a fare il Milan alla Juventus, sì. E lui, beh, lui è a casa sua, sì. Grazie, arrivederci. Sì, intanto mi segnalano basculatori oggi bravissimi, perché c'è non accetto numeri 10 però, No, però c'è Antonio, il taxista di Milano, che insomma, brucia tutti sul tempo. Montella. Sì, ci ha preso in castagna. Numero 9, grande allenatore o aspirante grande allenatore. Attualmente eccellente tecnico. Jupp Heynckes. E poi c'è quell'altro, quello sì, bravino. Quello ha vinto qualcosina? Sì, qualcosina. Ferguson. Alex, Sir Alex, dici? Sì, e Sir Alex Ferguson. Ne abbiamo già trovati Montella, anche Ferguson, numeri 9, Mancini, Lidon, Cruyff. Sì, ma Mancini io non lo conto. Ad esempio Vialli ha fatto una carriera da allenatore abbastanza breve, per carità. Bene, anche lui ha iniziato da predestinato, mi pare che abbia capito in fretta però che è meglio fare altro. A proposito di Fiorentina, c'è questa interessante intervista, divertente più che altro, di Mika Richards, neo difensore della Fiorentina, sul Guardian, dove spiega Montella: allora, lezioni di tattica alla lavagna, io mi siedo lì, non capisco una parola, in campo mi dice solo shut shut shut, tira tira tira di qua di là, nient'altro, mi siedo lì, non capisco niente e dopo un po' guardo nel vuoto. Short press defense, short press defense. È il secondo, anche De Frey ha detto: ma io pensavo mi chiamassero in inglese, parlo, sì. Non mi rispondono. Parlo, non mi rispondono. Solo 7 parlano in inglese alla Fiorentina. E quindi Mika Richards. Il resto è la fotografia dell'Italia, Riunioni tattiche di noi, volevamo savoir. Oh, e sta a guardare nel vuoto. Andrea, provincia di Monza, buongiorno. 8-0. Sì. Numero verde è? Lo faccio dire a voi oggi. Numero verde è? 800-24-00-24. Bravo. Dica. Sì, volevo dire la mia sul discorso Inzaghi, allenatore numero 9. Io in generale sono d'accordo che i centrocampisti è più facile che diventino bravi allenatori, ma lui, per il modo che aveva di giocare sempre sul filo del fuorigioco, secondo me le difese le poteva studiava fare l'arbitro, bene. Deve fare l'arbitro, le dice. L'assistente. No, lui le difese le studiava bene e sì. Secondo me saprà insegnare ai suoi difensori come eludere il gioco degli attaccanti. Ti faccio vedere come li fregavo io. Ma io credo che il problema, difatti, cioè Inzaghi è bravissimo, Milan davanti spettacolare, corre, fa gol, semmai diciamo il problema è che deve insegnare anche a quelli dietro, visto come sono andate le prime due partite di campionato. Però Carlo in questo è molto scettico su Inzaghi, no, invece io confermo, a me ha molto stupito. Sono due partite, Giovanni. Sì, sono due partite, però non era facile, no, ma quello non era assolutamente facile. È quello che diciamo con Alessandra Boggi, cioè un effetto emotivo. Certamente un effetto emotivo. No, ma non è solo un effetto emotivo, secondo me c'è anche un'idea tattica. Poi non credo che il Milan possa andare avanti fino alla fine dell'anno con questa idea tattica, perché non sempre troverà, ad esempio, squadre come la Lazio che non ti conoscono, vengono a San Siro, si allungano, ti lasciano spazio dietro i difensori, che in questo momento è il pane di cui si ciba l'attacco del Milan. Però è anche vero che insomma, al di là delle parole di Allegri, gli è andato in mano un mercato fatto alla fine di parametri zero, insomma lui non si è lamentato e ha costruito un'idea tattica, un'identità che il Milan non aveva. Poi abbiamo scoperto che i giocatori si prendono non solo con i soldi ma anche con i buoni rapporti. Hai letto cosa ha detto Galliani? Sì, ma ha ragione. Ha ragione, io di questo sono assolutamente convinto. Si prendono con i buoni rapporti. Sì. Non li paghi, però in compenso hai molti amici e qualche volta diciamo che se i tuoi amici hanno dei problemi, come ad esempio aveva il buon Florentino Perez nella gestione dei portieri, gliene avanzava uno, è più facile che te lo dia se hai ottimi rapporti. E ti danno buono. Corre al Madrid ha ottimi rapporti. Beh, poi quelli sono problemi di Florentino Perez. Al Real sbagliano spesso le valutazioni su chi lasciar partire. Mi viene in mente Cambiasso, Robben. Sì. qualche volta. Sì, qualche volta sbagliano. Qualche volta sbagliano, in compenso Di Maria se lo sono fatto pagare, però risulta che lo riprenderebbero domani mattina. Beh, certamente lo riprenderebbero domani mattina, però se la storia è vera, cioè Di Maria ha bussato alla porta e ha detto io voglio i soldi di Cristiano Ronaldo, loro gli dicono no, quei soldi sono di Cristiano Ronaldo, quanto vali sul mercato? 60? Ho pagato 60, no? Allora mi sembra anche un affare dal punto di vista economico. Di Maria, straordinario giocatore, però non l'hai venduto per due lire. No, è un affare se Carletto Ancelotti rimette insieme i pezzi. L'anno scorso è arrivato a dicembre per inserire Bale, poi ce l'ha fatta, gli è andata bene che il Barcellona non correva. Quest'anno vediamo, però non è semplice e soprattutto quest'anno mi sembra che il Barcellona sia concreto e corra, e questo è un problemino. Barcellona che peraltro in Champions League ha rovinato di gol l'Apoel 1-0. Ma difatti quindi quando parlavamo prima CSK Mosca è scarso, il Malmo, a me sembra che questo primo turno ad esempio ha visto che non vincere il Chelsea, non vincere il Paris Saint-Germain. Hai visto come ha vinto il Liverpool con il Ludogorets, rapina con scasso a ricordiamo che l'anno scorso quando la Lazio è uscita con Ludogorets tutti abbiamo urlato alla delusione, sì, allo scandalo, al disastro del calcio italiano. A momenti questi vanno ad Anfield Road e pareggiano. E sarebbe stato il minimo sindacale per la partita che hanno fatto e che ha fatto il Liverpool. Tutti convocati. Allora, quanto alla Formula 1, la notizia non è tanto quella di cronaca. Alonso, miglior tempo nelle prime libere del Gran Premio di Singapore, 1.49.056 davanti ad Hamilton, Rosberg, Vettel, Ricciardo, Vergne, settimo Raikkonen, ottavo Button, nono Kvyat e poi Perez. Quanto le dichiarazioni che hanno fatto molto rumore dello stesso Fernando Alonso? Dobbiamo solo continuare a fare il meglio in pista e niente da aggiungere, come ho detto, sempre detto il mio parere di quale voglio che sia il mio futuro e basta, spero che non debba parlare un giorno, no? Perché queste voci, come dico, forse con qualche intenzione non buona per il marchio, non fanno bene a nessuno. Alberto Sabatini, direttore di Autosprint, cosa vuol dire questo? Ciao Alberto. Ciao, lì in questa dichiarazione Alonso se la prende in particolare con Sky, che ha messo in giro e ha sostenuto l'ipotesi dello scambio di piloti tra Alonso e Vettel il prossimo anno. Alonso insoddisfatto della Ferrari, Vettel insoddisfatto della Red Bull, l'ipotesi di uno scambio. Dico subito che io non credo, che noi non crediamo di Autosprint, non crediamo a questa ipotesi, perché in realtà le cose stanno un pochino diversamente. Poi la lamentela di Alonso è dovuta al fatto che in questo periodo, da circa un mese, cose maturate poi con il cambio alla presidenza della Ferrari, si sono diffuse tante voci sul suo futuro di pilota in Ferrari. A lui queste voci, purtroppo per lui, sono vere queste voci, perché lui sta trattando veramente l'estensione del contratto con un rinnovo molto oneroso. Però il fatto che queste voci vengano fuori rovinano, diciamo, da un certo punto di vista la sua trattativa. D'altronde Alonso non può anche pensare, non può neanche pretendere che i giornalisti non dicano le informazioni che circolano. E non si può neanche dimenticare quel giorno in cui, tanto per ricordarne una, Alonso disse: beh, come regalo di compleanno una Red Bull non mi dispiacerebbe, una macchina che vince. Sì, esatto, fu l'anno scorso e gli è stato rinfacciato più volte, dallo stesso Montezemolo in poi, insomma. Quindi tu pensi che Alonso possa accettare di rimanere ancora, quindi di chiudere una carriera in cui, dato il valore assoluto del pilota, secondo me ha vinto poco, credi possa accettare di chiudere la carriera in una macchina che vediamo quanto competitiva l'anno prossimo, negli ultimi anni non è mai stata? Ma in questo momento io non lo credo, per un motivo semplicissimo. Alonso fin da quest'estate ha cominciato a trattare con la Ferrari il rinnovo del contratto, rinnovo che non era strategico per lui, perché il suo contratto scade a fine 2016, quindi ha ancora davanti due anni e un pochino di vita in Ferrari. Allora perché Alonso ha cominciato a trattare un rinnovo per un contratto per un'epoca in cui parliamo del 2017, che è molto lontana? Perché in realtà lui si rende conto che la competitività della squadra non è eccezionale, cerca stabilità, vorrebbe anche guadagnare più soldi, perché in effetti la vuole come contropartita per i disagi e le sconfitte che patisce. Cioè, mi avete fatto perdere, mi pagate. Aveva cominciato questa trattativa e poi ha capito, o ha capito per necessità, che la Ferrari non poteva prendersi impegni a così lunga scadenza perché era imminente il cambio alla presidenza. Montezemolo non avrebbe preso un impegno per un contratto nel 2019, visto che poi nel giro di pochi giorni si è saputo che lasciava il posto a Marchionne. Sì. E in questo momento le certezze di Alonso, che aveva anche un'offerta dalla McLaren Honda per i prossimi anni, che lo copriva di soldi, si sono fatte più forti queste incertezze, perché davanti aveva inizialmente la stabilità della Ferrari, Montezemolo, Mattiaccio, un'organizzazione che si stava ristrutturando e voleva soltanto un rialzo di stipendio. Sì. Dall'altra aveva l'incertezza della McLaren. Adesso in questo momento invece le situazioni si sono un po' ribaltate, perché il futuro della Ferrari è un pochino stato scombustolato dal cambio di presidenza e dall'arrivo di Marchionne, il quale Marchionne ha liquidato Montezemolo con le parole "nessuno è insostituibile", parole che potrebbe usare anche per un Alonso deciso a trattare, a pretendere forti garanzie dalla Ferrari per continuare. Certo, grazie. Quindi Alberto. In questo momento lui è molto nervoso. Molto nervoso, e credo lo sarà anche nei prossimi mesi. Grazie Alberto Sabatini. Grazie. Prego, arrivederci a voi. Ciao, domenica ne parlerai. Domenica ne parliamo di sicuro. Corsa alle 14. La corsa alle 14, tra l'altro è una corsa bellissima, scenografica, Singapore. Io ho l'impressione che Marchionne la pensi diversamente. Non mi sembra manager da staccare assegni da 30 milioni a stagione, seppure per un fuoriclasse come Alonso. Credo che abbia in testa di dover ripartire da sotto per provare a mettere a posto la Ferrari. Poi si è anche assunto delle belle responsabilità, perché è vero che Montezemolo non vinceva da 8 anni, però è anche vero che la prima mossa, arrivare e dire "beh, però adesso mi serve tempo per ricominciare da capo", il tempo l'aveva chiesto anche Montezemolo in fondo. Sì. E se i tifosi della Ferrari non erano più disposti a concederlo a Montezemolo, non so quanto questo credito possa essere concesso a Marchionne. Allora, schedina. Facciamo la schedina, vai. Cesena-Empoli, me ne frega niente. Ma Cesena-Empoli, io dico che vince il Cesena, dai. Mi importa niente. Milan-Juventus. Vince la Juventus 2-1. Chievo-Parma. X. Genoa-Lazio. 2. Roma-Cagliari 8-0. 1-1. Sassuolo-Sampdoria. Sassuolo-Sampdoria 1, dai. 1. Ci stiamo. Si discute. Ci stiamo. Atalanta-Fiorentina. X. Secondo me 2. Sono d'accordo con Zeman una volta tanto. Udinese-Napoli, che si gioca tra l'altro domenica, hai due partite alle 18. Sì, Udinese tra l'altro non sarà nemmeno la prima volta, perché con questo spezzatino nuovo che stanno creando anche per le TV asiatiche, la domenica alle 18 troveremo spesso delle partite anche interessanti. Atalanta-Fiorentina, Udinese-Napoli, no, assolutamente un disastro. Comunque questa è, secondo me, a parte adesso Milan-Juventus, è la partita più interessante della domenica. Io aspetto di capire qual è la dimensione del Napoli, se quello un po' svagato del campionato, quello non li vedo benissimo, convalescente, non li visti, dell'Europa League non li ho visti neanche, non ho visti bene nemmeno in Europa, però secondo me non passa. Palermo-Inter 20-45, poi Torino-Verona 20-45 domenica. Palermo-Inter vince l'Inter, Toro-Verona pari. Toro-Verona interessante, interessante. Bene, allora ti lascio la palla domenica 17-19. Grazie a tutti, Franco, soprattutto a Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione. Noi ci sentiamo lunedì alle 2. Ciao. Sono ostaggio, sono ostaggio. Sistemiamo questa faccenda. Ma certo. Sappiamo tutti che cosa dobbiamo fare. Entriamo, facciamo il lavoro e usciamo. Abbiamo 45 minuti, pronti al calcio d'inizio. Siamo tutti d'accordo? Sì. Siamo tutti pronti? Sì. Sì. Sì.